uomini hanno visto il tuo viso, tante mani, i tuoi seni sfiorato. Nella camera da letto una routine, una ginnastica senza fiato. Quante volte hai fatto l'amore senza mai pensare al tuo cuore? Quante volte hai chiuso la bocca? Quante volte hai perso la faccia? Quante volte hai chiuso la porta e lasciato sull'uscio il latte? Stracciato il biglietto di andata? In fondo tu non sei mai partita. Ho ascoltato tutta la notte il canto dei lupi. Nella strada non ci sono poeti, solo schiavi. Non conosco futuro, non conosco presente. Il gelo incandescente, il cielo troppo pesante. Una casa tanto per dormire, abbiamo tutti un destino segnato, chissà per quale peccato, chissà cosa avrai combinato per trovarti in questo stato, chissà cosa prevede la legge per chi dà il piacere e non finge. Avrei un film da farti vedere, ma non so se lo vedrai sino alla fine. Ti addormenti sempre a metà tra i tuoi sogni e la realtà. Ho ascoltato tutta la notte il canto dei lupi. Nella strada non ci sono poeti, solo schiavi. Non conosco futuro, non conosco presente. Il gelo incandescente, il cielo è troppo pesante. Farfalle, tu che vivi una vita di pelle, sono rosse le tue rose di sangue, sono gialle le tue pupille. Il ciclo vitale delle anguille è una religione senza padri, il tuo andare venire costante, un binario senza stazioni, da leggere per un pubblico ristretto. Anche Freud ha detto tutto, siamo nella comunicazione totale, sempre più soli con il cellulare. Ho ascoltato tutta la notte il canto dei lupi. Nella strada non ci sono poeti, solo schiavi. Non conosco futuro, non conosco presente. Il gelo è incandescente, il cielo è troppo pesante.